risultati sono, io direi, entusiasmanti per noi che abbiamo scommesso su questa iniziativa. I primi gruppi, che sono circa una trentina di persone, fatti nel 2009, hanno già terminato ed i risultati sono stati una riduzione media di circa 60% per quello che riguarda gli indici della depressione e di circa il 40% per quelli che sono tutti i sintomi ansiosi. Come questo è stato ottenuto è in realtà molto semplice: un allenamento ad utilizzare gli strumenti del respiro per ricreare uno stato di equilibrio del sistema nervoso, a partire dal quale utilizzare dei principi fondamentali di un'esistenza sana ed ecologica rispetto alle problematiche della vita quotidiana. È un vero e proprio percorso terapeutico, ma come si articola? Dunque, si articola in una prima fase intensiva che dura 10 incontri nell'arco di 2 settimane, alla sera e nei pomeriggi dei weekend, in cui si imparano le tecniche, si impara ad applicarle nella vita quotidiana e si impara a utilizzare sia le tecniche di emergenza per affrontare i momenti difficili che le tecniche che giorno dopo giorno costruiscono una maggiore stabilità emotiva. Dopodiché per 6 mesi c'è un incontro settimanale di follow-up che accompagna gli utenti e i pazienti a stabilizzare i risultati della terapia. Dottor San Lorenzo, ma lungo questo percorso naturalmente ci sono delle difficoltà, degli ostacoli. Che cosa vi hanno raccontato i vostri pazienti? Quali sono le difficoltà maggiori? Dunque, le difficoltà maggiori sono in realtà i momenti più preziosi, perché queste difficoltà si incontrano quando si arriva ad affrontare quello che è il nucleo del problema personale, che tra l'altro molto spesso è legato anche al contesto familiare piuttosto che a eventi difficili della propria vita. Per cui in questo senso il gruppo e gli incontri settimanali sono molto importanti, perché il paziente si trova supportato dalle tecniche, dal terapista e anche dal suo gruppo con cui giorno dopo giorno affronta delle difficoltà, in cui diciamo c'è sempre qualcuno più forte che aiuta i compagni di gruppo che stanno affrontando un momento difficile. Quindi diciamo momenti di trasformazione e i cosiddetti momenti di ricaduta, quando ormai è stabilizzato il benessere, l'equilibrio e accade qualcosa di difficile che potrebbe riportare qualche passettino indietro, diciamo. Ecco, ma si torna indietro per fare un passo in avanti ulteriore, vero dottore? Decisamente, il coraggio di riconoscere le proprie debolezze e la forza di applicare quello che si è imparato per affrontarle amorevolmente, con pazienza, è un grandissimo risultato. Dottore, abbiamo detto che Sky è un percorso terapeutico testato in un ospedale milanese, il Fate Bene Fratelli, approderà in altre strutture pubbliche. Come si può aderire a questo progetto? Dunque, si può aderire in modo molto semplice mandando un'email all'associazione IAV Italia, che è l'associazione che si occupa di promuovere l'iniziativa, e in questo modo si viene informati sugli sviluppi del progetto Sky nelle principali città d'Italia. Le prossime quali saranno? Le prossime saranno Roma, Firenze, sì, e Torino. Quanto costa questo percorso terapeutico? Ci saranno delle sommature a seconda delle tariffe delle regioni, perché del sistema sanitario regionale. In Lombardia si paga il ticket, il costo per il paziente per i 6 mesi di terapia è di circa 230 euro. Quindi chi volesse aderire a questo percorso deve rivolgersi al medico di base? Sì, noi ogni mese facciamo delle serate di presentazione per informare e permettere a tutti di scegliere con cognizione di causa di partecipare alla terapia. Fatto questo, si decide di partecipare, ci si va a fare un'impegnativa dal medico di base e dopo la visita con la psichiatra, la dottoressa Doria, che è la responsabile clinica del progetto, vengono emesse tutte le impegnative direttamente dal team del Fate Bene Fratelli. Qual è l'età media dei vostri pazienti? L'età, il gruppo principale diciamo oscilla tra i 28-30 anni e i 45-50 anni, ma non mancano persone di 20 anni come persone di 60-65. Sono persone che hanno già avuto esperienze farmacologiche, di psicoterapia, o sono persone che per la maggior parte si rivolgono per la prima volta ad un percorso di questo tipo? No, quasi tutti hanno già fatto percorsi terapeutici di vario tipo, circa il 50-60% dei pazienti è anche in terapia farmacologica, c'è circa un 40% di pazienti che invece non è in terapia farmacologica perché ha un percorso personale di preferenza per la psicoterapia o perché non ha avuto effetti con la farmacoterapia. Voi puntate molto sulla respirazione. Tante volte tirare un bel respiro funziona, però noi non abbiamo proprio la consapevolezza di quanto il respiro possa diventare strumento di benessere e, considerato anche l'esperienza di Sky, di terapia. Lei riesce a farcene prendere consapevolezza? Farei un esempio molto vicino alla nostra vita quotidiana. Basta ripensare ad ogni emozione che noi proviamo. Ogni volta che proviamo un'emozione, se prestiamo attenzione al nostro respiro, vedremo che il modo con cui respiriamo, il ritmo e la profondità è sempre lo stesso, cioè per ogni emozione abbiamo un preciso modo di respirare. Quindi le emozioni influenzano il respiro, ma possiamo anche imparare a chiudere questo cerchio, e lo sappiamo anche intuitivamente, si dice fare un profondo respiro. Cambiando il ritmo e la profondità del respiro possiamo dare dei segnali al nostro sistema nervoso centrale, soprattutto al cervello limbico che processa le emozioni, e in questo modo trasformare anche lo stato emozionale. E quando si impara a fare questo, questo si può abbinare anche a un'attitudine molto costruttiva rispetto allo stato anche fisico che corrisponde alle emozioni, che è un'esperienza molto forte per chi ha gli attacchi di panico. Impariamo quello che è una legge naturale e che tutti noi sappiamo, ma che facciamo fatica ad applicare, e cioè che un'emozione spiacevole e una sensazione spiacevole non si possono resistere, non si possono combattere, anzi bisogna saperle accogliere e lentamente trasformarle. Tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di cercare di ricordare qualcosa e di accanirci e non riuscire a ricordarlo. Non appena ci siamo rilassati e abbiamo spostato l'attenzione, il ricordo affiora. Così come vale per un'emozione che vogliamo scacciare, è impossibile scacciarla. Quindi ci si rilassa, si accoglie e si trasforma col respiro. Grazie, dottor San Lorenzo, per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata e grazie a tutti voi.